La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, 16:32 primi in questo secondo agli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come tutti i giorni per l'ascolto qui versione di Oscar in diretta o in podcast, e vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @24.it per, lo sapete, proporre temi, interventi, critiche, domande a cui rispondere. Domani sarà la giornata incandescente, perché domani nel pomeriggio sapremo gli interventi sul capitale di MPS per la cessione dei suoi NPL in serata agli stress test, ma oggi restiamo su un punto collegato ancora al terrorismo islamista e vi faccio una domanda per vedere come la pensate, per intervenire all'800240024 o gli sms 3492386666. La domanda è molto semplice, anche se la risposta non lo è per niente. A che tipo di libertà sareste disposti a rinunciare? Non dico del tutto, ma a vederla compressa, limitata, in ragione di misure di sicurezza e di controllo diretto, fisico o a distanza, sulla rete o con tutti gli aggeggi della tecnologia, droni compresi, per fronteggiare, e cioè per diminuire il rischio, perché purtroppo annullarlo, come vedete, non si può, di attentati terroristici contro le persone, gli assembramenti. Si va dalle manifestazioni sportive, come avete visto, ai luoghi di culto, i ristoranti, i bar, i centri commerciali. Cioè stiamo parlando di una infinità di luoghi rispetto ai quali la difficoltà di concentrare le forze di sicurezza è ovviamente distinte dall'apparato di ricerca di fonti aperte o chiuse che fanno l'intelligence con i telefoni, internet, eccetera, eccetera, ma la possibilità davvero di intervenire in maniera preventiva in tutte queste migliaia e migliaia di luoghi in cui c'è la vita pubblica collettiva e naturalmente fuori dalle possibilità materiali e concrete delle nostre forze di sicurezza, il nostro apparato delle forze dell'ordine. Se ci volete mettere anche i militari, mettetecelo, anche se io sono sempre un po' contrario e restio all'utilizzo dei militari per cose a cui non sono addestrati, non hanno le mansioni poi di polizia giudiziaria e così via. Però la domanda che vi faccio è: a che cosa davvero sareste disposti a rinunciare? Qui non si tratta di innalzare la bandiera bianca, come dicono alcuni, noi non possiamo darla vinta se modifichiamo la nostra maniera di vita. Vi ricordo solo, prima di presentare l'ospite, perché lui su questo ne sa molto più di me, per la professione che svolge da molti anni, che quando noi dovemmo affrontare come Italia il fenomeno del terrorismo, i durissimi anni di piombo che hanno creato una purtroppo scia di sangue dolorosissima nel nostro paese, in quegli anni noi siamo intervenuti sul corpo di diritti che venivano garantiti dalle nostre norme. Vi faccio un solo esempio: chi ha più anni sulle spalle come me ricorda perfettamente, per esempio, la cosiddetta legge Reale, dal nome Oronzo Reale, del ministro di giustizia che la emanò. Apparteneva al Partito Repubblicano, era un partito piccolo ma che era sostenitore della linea della fermezza assoluta contro il terrorismo. E quella legge, con il fermo lungo di polizia e così via, consentiva delle limitazioni che prima non erano previste e non sono previste oggi nel nostro ordinamento, consentiva alle forze di polizia di fermare per giorni i sospettati e di poter intervenire su di loro alla ricerca di indizi, interrogatori e così via, prima ancora che ci fosse il contatto con gli avvocati. Quindi si interveniva sia sul diritto di libertà, l'habeas corpus, che per i liberali è sacro, sia in realtà sul pieno immediato esercizio dei diritti di difesa. Oggi in realtà la portata dell'attacco islamista è molto più ampia e imprevedibile di quella di allora, perché ricordate che comunque il terrorismo ha sì brutalmente colpito anche stazioni, luoghi pubblici, ricordate la strage di Bologna e così via, ma treni, ricordate la lunga serie di attentati ai treni dagli anni 70 in poi nel nostro paese. Nella realtà però praticava soprattutto interventi mirati. Si trattasse purtroppo di poliziotti, giornalisti, avvocati, magistrati appartenenti all'arma dei carabinieri via cantando, politici azzoppati e gambizzati, sindacalisti azzoppati e gambizzati o uccisi come nel caso di Guido Rossa. Però era una lista di obiettivi politici che pure ha convissuto anche con stragi di massa per il puro terrore della cosiddetta strategia della tensione. Ma oggi gli obiettivi e le forme a cui il franchising di Daesh invita tutti gli spostati, affiliati anche dell'ultima ora, a colpire sono praticamente imprevedibili, possono toccare qualunque aspetto della nostra vita. A maggior ragione, quindi, la domanda che si pone è: siamo davvero disposti a rinunciare a qualcuno dei nostri diritti, a vederlo limitato? Ma però dite quale in questo caso, perché altrimenti tutti i proclami di usare il pugno di ferro eccetera eccetera diventano, perdonatemi, sia pur comprensibili, ma dichiarazioni di generica demagogia, no? Questo è il punto. E c'è un altro punto: è possibile immaginare limitazione dei diritti solo per stranieri, immigrati e profughi rispetto agli italiani? È possibile davvero questo secondo l'ordinamento non solo nazionale ma anche internazionale a cui apparteniamo? Dite anche su questo la vostra, e intanto però affidiamoci alle considerazioni, ai giudizi, alle proposte, alle opinioni di un operatore di giustizia vero, ovvero uno dei più seri del nostro paese, il procuratore aggiunto di Venezia, che scrive anche sul Messaggero e così via, Carlo Nordio, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Spiega un pochino dal suo punto di vista, procuratore, di chi ha visto anche quell'epoca sanguinosa italiana, come pensa che sia opportuno, giusto, in che limiti, con quali esempi e quali fattispecie sul corpo di diritti che oggi è vigente nel nostro paese per gli italiani e per gli stranieri nel nostro paese? Beh, innanzitutto sono due fenomeni molto molto diversi, come ha detto lei. Il terrorismo che noi abbiamo vissuto 30 anni, 35 anni fa è quello di oggi, di cui l'Italia è minacciata, ma che per fortuna fino a questo momento non ha subito, anche se tutto lascia supporre che prima o dopo dovrà subirlo. E allora, innanzitutto, negli anni passati noi avevamo due tipi di terrorismo: un terrorismo che potremmo dire nero, molto disordinato, molto aggressivo, ma nello stesso tempo e anche più pericoloso, perché colpiva la cieca, come lei ha giustamente ricordato. Era un terrorismo bombarolo, ha mietuto molte vittime a Bologna, a Brescia, ovviamente a Milano, e non si capiva bene, nemmeno oggi si capisce bene, a quale tipo di strategia ubbidisse. Si è parlato di strategia della tensione, ma ancora oggi, ripeto, non si sono molti misteri che lo c'è. Servizi deviati, collegamenti internazionali e così via. Ripeto, tra l'altro sulla strategia di Bologna ci sono ancora molti, molti dubbi. Ho accennato a un libro recente che è scritto tra l'altro dall'ex giudice priore, in cui si avanza tutt'altra pista, collegato all'atteggiamento diciamo molto compiacente che l'Italia dal 73 in poi ha avuto verso il terrorismo medio orientale. Esattamente, sì. Tra l'altro Rosario Priore, che è stato uno dei colleghi più importanti e preparati, ha manifestato a suo tempo anche delle idee diverse da altri colleghi altrettanto preparati che si erano occupati di questi terrorismi, diciamo così, un po' disordinati. Quello invece che è stato più pericoloso, di cui tra l'altro mi sono occupato anch'io personalmente per la colonna veneta delle Brigate Rosse, è stato appunto il terrorismo rosso, che aveva, come lei ha prima giustamente citato, intanto una strategia molto diversa e una tattica diversa. Era essenzialmente mirata, colpiva soltanto degli obiettivi ben selezionati che costituivano dei simboli, quindi magistrati, professionisti, giornalisti, uomini politici, eccetera. Li colpiva in vari modi, ora gambizzando, colpendone uno per educarne 100, come dicevano, ora sequestrandolo per chiedere un riscatto, ma soprattutto per mantenere alta la tensione del sequestro, come è stato con l'onorevole Moro, che ha avuto un esito infausto, o con altri invece magistrati come D'Urso o Di Gennaro, che hanno avuto degli esiti invece più felici. O col generale Dozier della NATO. O col generale Dozier, che addirittura è stato liberato da noi proprio qui nel Veneto. E quindi diciamo, poi era un terrorismo che era estremamente strutturato, anche ideologicamente molto motivato, era relativamente prevedibile, è stato studiato a fondo soprattutto dalla magistratura, soprattutto da noi, si è capito che un punto debole era costituito dal fatto che, avendo lo Stato resistito giustamente senza, diciamo, cedere ai ricatti nel momento del rapimento dell'onorevole Moro, la crisi che aveva investito quel movimento delle Brigate Rosse poteva essere, diciamo, gestita con una legge premiale che aiutasse i dissociati o i potenziali dissociati a uscire dal movimento. E come i più anziani ricordano, tra l'81 e l'82, subito dopo appunto la liberazione del generale Dozier, il terrorismo fu vinto, vi furono delle code anche sanguinose, il generale Galvalisi fino a Biagi pochi anni fa, però sono stati episodi isolati e possiamo dire che la Repubblica non ha mai corso il rischio, sì, non solo di finire male come istituzione democratica, ma nemmeno di vedere una deriva incostituzionale di limitazione dei diritti. È vero quello che dice lei, che vi furono delle limitazioni con la legge reale, con il fermo di polizia e con altre cose, ma furono delle situazioni molto limitate anche nel tempo, sì, e tutto sommato l'orgoglio che noi abbiamo sempre manifestato, noi magistrati, è stato quello di avere sconfitto il terrorismo nel pieno rispetto della legalità costituzionale. Quello che succede oggi è completamente diverso, è un terrorismo che per noi è sconosciuto e soprattutto siamo, secondo me, culturalmente impreparati ad affrontarlo. Mi spiego. Quando io sento persino il Papa dire che non si tratta di religione, di guerra di religione, ma è una guerra che è dovuta ai fabbricanti d'armi, ai soldi e sono problemi di denaro, io mi preoccupo perché vedo una sorta di incapacità a comprendere una cosa che invece chi conosce la storia comprende benissimo, cioè che, a differenza di quanto ci insegni la vulgata marxista, che le guerre sono sempre motivate da ragioni economiche, in realtà molto spesso la natura umana ha provocato le guerre per ragioni religiose. Basta studiarla la storia, la storia del 500, del 600 è piena di guerre di religione. E io temo che l'incapacità nostra di comprendere che questa è una vera guerra di religione, ovviamente non dell'Islam contro il cristianesimo, ma di una parte aggressiva, forse sicuramente minoritaria dell'Islam, contro la società occidentale e anche contro quella parte dell'Islam che è meno radicale di loro, ecco, non ci offre gli strumenti essenzialmente culturali e strategici per poterla affrontare. Se da questo poi scendiamo agli aspetti giuridico-costituzionali, qui in Francia, da dove io sto parlando, la situazione è quasi paradossale, perché l'editoriale odierno del Figaro, per esempio, è molto significativo, dice che se certi provvedimenti possono, tipo quello di arrestare i semplici sospetti, sono incostituzionali, allora è bene cambiare la Costituzione, perché la situazione del Paese è tale per cui la sicurezza nazionale viene prima di tutto. In Italia, naturalmente, e per fortuna non siamo a questo punto, però bisogna tener conto che le reazioni dell'opinione pubblica e quindi della classe politica che le interpreta sono sempre, in relazione, scusate il bisticcio di parole, con la situazione di pericolo. E qui in Francia la sentono moltissimo con quello che è accaduto. Siamo certi che se in Italia dovessimo arrivare allo stesso zenith di tensione, anche da noi ci sarebbero questi florileggi di proposte. Che fare? Per il momento, ripeto, da noi la situazione è meno emergenziale. Possiamo però fare quello che la Francia non può fare. Per esempio, quando è scoppiata la polemica in questi giorni a seguito dell'assassinio del povero sacerdote di Rouen, e si è scoperto che l'assassino era stato classificato tra i potenziali terroristi e era agli arresti domiciliari con un semplice braccialetto elettronico, bisogna dire che lo Stato era senza difese, perché quello era un cittadino francese, non potevano fare nulla. Certo. Mentre in Italia, poiché abbiamo, almeno per fortuna, non avendo il retaggio di imperialismo e di colonialismo, certo, che hanno avuto loro, Noi i sospetti, i classificati, come dico, si dice qui, no? I classifié che sappiamo, ce ne sono che in Italia frequentano certi tipi di ambienti, sono molto spesso persone addirittura illegalmente residenti in Italia e quindi quantomeno li possiamo buttare fuori nella più perfetta legalità. Allora, la fermo qua perché abbiamo un minuto di traffico, l'informazione stradale, poi riprendiamo con il procuratore di Venezia Nordio. Vedo anche che ci sono telefonate vostre diverse in arrivo. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Intanto le agenzie informano che è fermato un ventenne francese a Rouen, schedato anch'egli come S, cioè la categoria che tutti avete imparato in questi giorni essere quella che nella gerarchia dei livelli di pericolosità delle forze dell'ordine e di sicurezza della magistratura francese individua quelli a radicalizzazione avvenuta e comprovata o quantomeno fortemente sospetta di islamismo, con quantomeno ricerche online, ma anche a volte contatti o tentativi addirittura di andare e tornare dalla Siria o dall'Afghanistan. E in effetti questo ventenne, di cui le agenzie informano essere avvenuto il fermo a Rouen, partì verso la Turchia insieme a uno dei due attentatori, quello che era stato liberato da un periodo di detenzione solo pochi mesi prima del tragico assassinio del prete che c'è stato l'altro ieri. Allora, intanto il procuratore di Venezia, Carlo Nordio, ci ha detto: noi, a differenza della Francia, abbiamo un meccanismo di espulsione che possiamo usare verso chi qui non italiano e addirittura molto spesso clandestino. La novità buona, secondo me, di questi ultimi giorni è che in vicende come quella dell'espulsione dell'imam vicentino ieri, pare che l'assegnazione alle forze dell'ordine sia venuta da chi musulmano ascoltava le prediche radicalizzate dello stesso imam, quindi segni di cooperazione dall'interno della comunità islamica iniziano a esserci concreti, e questo è una cosa molto positiva rispetto a tutti quelli che dicono fatevi vedere e sentire con dichiarazioni di dissenso. Qui si tratta addirittura di una cooperazione giudiziaria. Prima di riprendere il discorso su a cosa eventualmente pensare ancora nel nostro ordinamento, anche solo per averlo pronto in caso in cui si dovesse fare un decreto, voglio dire, chiaramente, come il dottor Nordio ci ha informato, in caso in cui ci fosse un gravissimo attentato in Italia, a quel punto la politica dovrebbe dare una risposta, speriamo di no, ma a quel punto meglio averci pensato prima. Qualche breve intervento vostro, cominciamo con Manfredo da Firenze. Prego Manfredo. Ciao, buongiorno Oscar, buongiorno procuratore Nordio. Io non sono disposto a dare una virgola della mia libertà e le spiego anche il perché. Sì. Nel 76, durante il sequestro Moro, mio padre fu arrestato insieme a mia madre. Non nel 76, non nel 76. Nel 78, mi scusi. Però se lei va a cercare sui giornali, ritrova, mi pare, 28 luglio del 78, Guido Campanelli, detto Iena, fu arrestato insieme a mia madre, il procuratore Tricomi firmò il mandato di cattura e se ne andò in ferie per 2 mesi. Aspetti un secondo, ma fu arrestato suo padre e sua madre con il sospetto di appartenere a colonne brigatiste? Era stato, l'ordine di cattura era, ora non mi ricordo di preciso, parla quasi 40 anni fa, era un pischello, perché sui giornali c'è scritto questo, era il sospetto capo della colonna Emilia Toscana Lazio delle Brigate Rosse. Ah. Boom. Io mi sono visto alle 5:30 di mattina un militare in piena assetto con un mitra davanti agli occhi col canna, cioè no, col beh, canna. Se sospettavano di quello, immagino, certo. Certo. Poi, mentre si scende le scale, il signor Luperi e il signor Fatrano, il quale è morto e offerto da bere al lavoro, ha una mia battuta stupida, ma era un pischello di 16 anni. E gli dissi: venite più spesso a farci le perquisizioni, non ho fatto il compito di matematica. Questo mi guardò e mi girò, mi disse: siamo soli, potresti scivolare dalle scale. Mia madre, un anno dopo il processo, state assolti perché il fatto non sussisteva, è morta di tumore. Mi hanno rovinato la vita. E il papà? Mio padre è stato assolto anche lui con formula piena perché il fatto non sussisteva, erano tutte illazioni. Mio padre si fece 4 mesi di galera. Io per fortuna non fui mandato a una casa famiglia perché mia sorella formalmente resideva ancora a casa mia. io non sono disposto a dare via quindi, una virgola della mia libertà. E quindi per quello che ti è capitato, hai toccato con mano, non sei disposto, e ti posso capire. Io naturalmente di quegli anni e di quei mesi tragici, già appartengo alla direzione nazionale dell'organizzazione politica, con la Malfa, me lo ricordo come se fosse ieri, il giorno della fiducia di Andreotti, l'intento della Malfa e così via. Che devo dirti? Io ci sono pienamente solidale. Detto questo, quelli sono stati periodi terribili, perché se fosse scattata la trattativa come una parte dello stesso partito di Moro e altri partiti erano pronti e disponibilissimi a fare, so che su questo la memoria storica ha cambiato idea, tutti sono diventati o quasi favorevoli alla trattativa. Io difendo il fatto che quella trattativa non si fece e sono ancora convinto che un pezzo di Repubblica è rimasto in piedi, come ci ricordava Nordio, grazie al fatto che si rimase fermi. Naturalmente Moro pagò amaramente e non da solo, però solidarietà a te. Però anch'io voglio dire, io vivo a Mirafiori, ci furono alcune perquisizioni di massa nel caseggiato dove abitavamo, tra via Carlo del Prete, di fronte a Mirafiori Nord, di fronte allo stabilimento di Mirafiori, perché molto spesso la mattina prestissimo c'era un regolare imbustaggio nelle buche delle poste dei volantini delle Brigate Rosse, ed erano dei sodali e sostenitori della colonna che lavoravano in Fiat a farlo, e vennero a perquisirci tutti all'alba, e questo ci sono passato anch'io per cose di quel genere, come tantissimi altri cittadini italiani. Ingrid dalla provincia di Torino, che dice Ingrid? Ingrid, Oscar, buonasera, sono Ingrid. Innanzitutto io dico, non sono minimamente disposta a rinunciare alla mia libertà per colpa di teste pazze, ma soprattutto per colpa di gente di cui assolutamente non sappiamo nulla, non difendono come a suo tempo in maniera giusta o ingiusta difendevano le nostre Brigate Rosse, le Brigate Nere, perché comunque avevano un movente politico, un ideale alla base. Daesh ce n'è uno fortissimo, cioè il califfato, sì, non è un califfato, però attenzione, come mai avete notato che negli ultimi momenti e soprattutto in questi ultimi giorni siamo passati da quelli che erano attacchi di massa con personaggi già di una certa età ad età da parte di terroristi? No, non c'è dubbio, Quindi, però non escluderei che colonne e cellule ci siano ancora, cioè, perché i foreign fighters nell'Europa del nord, in Francia, sono tanti, quindi non abbiamo elementi per poter pensare, siamo già alla fase delle ultime code degli spostati, dei depressi, dei giovanissimi, non lo so, io non me la sento, non sono magistrato, non appartengo a cose di intelligence, non abbiamo gli elementi per dire. Comunque, anche Ingrid ci ha detto, non sono disposto a rinunciare a nulla. Gianni da Padova invece? Invece io sì. Ah. Quello che stiamo vivendo è lo scontro fra il diritto naturale, che quindi è il diritto che lo Stato, è il dovere che lo Stato deve assicurare la sicurezza ai suoi cittadini, e il diritto positivo, che invece è un'invenzione degli ultimi due secoli. L'aborto, per esempio, non è un diritto naturale. Lo so, Gianni, però è un terreno di attrito molto forte. Però una cosa mi lasci dire. Certo. Cortesia. Allora, è l'uomo che è fatto per il sabato o il sabato che è fatto per l'uomo? È chiaro che è il sabato che è fatto per l'uomo. Ecco, a questo punto vorrei rimarcare una cosa. Io non credo che ci sia una distinzione fra l'Islam moderato, gli islamici moderati e gli islamici radicali. Temo che in realtà ci siano gli islamici radicali che suscitano in noi il sentimento di appoggiarci agli islamici cosiddetti moderati, no? In modo di è la stessa operazione che ha fatto purtroppo i romani con i barbari. I romani con i barbari sono appoggiati, li hanno fatti entrare addirittura nel loro esercito per difendersi dai barbari esterni, poi in realtà i barbari esterni erano d'accordo con quelli interni, si sono pappati l'impero. Allora io credo che sia questa l'operazione. Adesso noi ci appoggiamo agli islamici moderati, che in realtà sono semplicemente islamici pazienti. Loro sanno che sta facendo molti figli. È già successo No, ho capito dove vuoi andare a parare, però questo significherebbe non farli entrare in Italia, espellere quelli che abbiamo, tutti in quanto islamici. Tu la adotti davvero il criterio della guerra di religione piena, però un ultimo minuto di saggezza di Nordio, secondo lei se dovessimo preparare un decreto da tenere nel cassetto ma da tenere pronto, su quale paio di punti punterebbe? Ma guardi, mi lasci dire, non che spero che non ci sia bisogno, sì. Ma che già con le leggi che abbiamo basterebbe applicarle. Guardi, quando prima parlavo di inadeguatezza culturale ad affrontare questi sistemi, mi riferivo anche alla mancanza di coraggio che abbiamo proprio per applicare le leggi esistenti. Esempio, ripeto, molto semplice, quasi banale nei confronti della cultura islamica radicale. Sì. La legge italiana vieta, c'è un articolo specifico del testo unico legge di pubblica sicurezza, di girare con il volto coperto. E infatti noi abbiamo fatto una puntata in cui lei ha detto, io quindi nella mia circoscrizione giudiziaria in cui la applicherò alla lettera. Invece ieri giravo per via della Spiga a Milano e giravano tutte completamente travisate, tranne una fessurina sugli occhi. Questo fatto, per esempio, in Italia bisognerebbe seguire, secondo me, la linea Nordio di applicazione di una legge che c'è, cari ascoltatori. Grazie a Nordio, continuate con la 24, appuntamento con me, Alessandro Mina, domani mattina alle 8:15, attenti a noi due.